Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Massicci raid americani e dei paesi arabi sulla Siria. Le vittime, riferiscono le ONG, sarebbero 20, tra cui 8 civili. Intanto arriva un nuovo video dell'ISIS con un giornalista britannico che dice c'è il rischio di un nuovo Vietnam. E anche oggi, per l'elezione dei giudici della Consulta, nulla da fare. Scheda bianca praticamente da tutte le forze politiche. Il PD intanto rinvia il voto del gruppo del Senato sulla riforma del lavoro. Villa in Sardegna è un albergo in centro a Roma per un totale di 30 milioni. Scatta il congelamento dei beni italiani per uno degli uomini più vicini a Putin. Assurdo, replica lui. Il caso Yara, nuovi elementi portati dalla difesa mettono in dubbio la stessa prova del DNA. Ne parleremo col genetista che ha guidato le analisi sul caso. Resta alta la tensione a Corcolle, periferia di Roma, dove ci sono state le due aggressioni ad autisti di autobus. Presidio permanente degli abitanti davanti al centro di accoglienza per immigrati. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, come sempre i vostri commenti, se volete inviarceli potete farlo via email, effettogiorno@radio24.it, sulla nostra pagina Facebook oppure durante la trasmissione via sms al 349-238-6666. In apertura andiamo ai raid americani sulla Siria, tutti gli aggiornamenti. Obama alla fine è uscito dall'incertezza e ha ordinato l'attacco in Siria. All'operazione, che ha l'appoggio di Damasco, hanno partecipato anche 5 paesi arabi e nessun paese europeo. Aerei da combattimento, bombardieri e missili hanno colpito nel nord del paese campi di addestramento e centri di comando dell'ISIS, in particolare a Raqqa, dove il califfo al-Baghdadi ha posto la sua capitale. Un attacco che si è reso necessario, ha fatto sapere il comando centrale americano, per prevenire un imminente attacco contro gli Stati Uniti da parte del gruppo Khorasan. Intanto si continua a temere per la sorte dell'ostaggio francese nelle mani dei miliziani dell'ISIS in Algeria, mentre la Francia ha ribadito che non tratterà e gli jihadisti dell'ISIS hanno pubblicato il secondo video di propaganda del reporter britannico John Kento. After two disastrous and hugely unpopular wars in Afghanistan. Seduto a una scrivania con addosso una tuta arancione, il giornalista dice che i paesi occidentali hanno sottovalutato la forza e lo zelo del loro opponente, un copione che sembra essergli stato imposto dai suoi rapitori. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'analisi dell'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Per la prima volta dall'inizio della guerra contro il califfato, americani e alleati arabi hanno bombardato le basi dei jihadisti in Siria colpendo la roccaforte di Raqqa. Questa è una svolta nel conflitto che si trascina incognite e interrogativi. Il primo è: chi riempirà il vuoto lasciato dalle milizie dell'ISIL? Saranno i gruppi dell'opposizione appoggiati dagli Stati Uniti o altri movimenti radicali? Cosa farà adesso l'esercito di Bashar Assad? Damasco è stata informata dei raid aerei e deve decidere come sfruttare la situazione, cioè se attaccare le basi del califfato colpite dai bombardamenti. L'atteggiamento della Siria è fondamentale e la Russia ha già avvertito Washington che se intende proseguire gli attacchi deve ottenere l'esplicito via libera del regime di Assad, ma gli USA finora non hanno mai voluto contattare ufficialmente Damasco. È abbastanza chiaro a tutti che i raid sono importanti, ma non risolutivi. Decisivo sarà quanto accadrà sul terreno sia in Siria che in Iraq, dove gli americani per il momento non intendono schierare le truppe. Il lavoro sporco, cioè dare la caccia ai jihadisti, lo devono fare gli altri, le milizie irachene sciite, l'esercito di Assad, la stessa Turchia che ha un confine ribollente con la Siria. Troppe incognite per ritenere che questo sarà un conflitto breve. Le guerre si sa come cominciano, non come finiscono. E proprio di queste incognite, di questi interrogativi, torneremo a parlare nella seconda parte della trasmissione dopo le 13:30 per capire anche appunto quanto sia necessario a un certo punto che gli Stati Uniti mandino delle truppe di terra. L'oligarca russo Arkady Rotenberg ha definito il congelamento dei suoi beni in Italia nel quadro delle sanzioni occidentali appunto contro Mosca come illegittimo e assurdo. La Guardia di Finanza ha eseguito l'operazione ieri, si tratta di beni per 30 milioni di euro, tra cui il Berg Luxury Hotel, 4 stelle nel centro di Roma, un immobile a Tarquinia, una villa a Villa Simius e due a Porto Cervo, quindi in Sardegna. Rotenberg, 62 anni, allenatore professionista di arti marziali, amico di vecchia data di Putin. La sua fortuna personale è stimata in 3 miliardi e 400 milioni di dollari ed è tra i 500 uomini più ricchi del mondo. Ci sono le notizie economiche, iniziando dal numero di occupati artigiani tra il 2008 e il 2012, un numero diminuito di oltre 500.000 unità, secondo quel che emerge da uno studio sulle professioni condotto da Istat e Isfol. I più colpiti sono stati appunto artigiani e operai specializzati, che perdono 555.000 occupati nel periodo. Ma molti altri dati sono arrivati oggi, dati che mostrano che l'economia europea è ancora in sofferenza. La ripresa sta perdendo vigore, parole di Mario Draghi. Le condizioni economiche durante l'estate si sono rivelate più deboli del previsto, ha detto il governatore. A distanza di 24 ore la conferma arriva anche dai dati. Cala l'indice PMI tedesco, resta sopra quota 50, che è lo spartiacque tra crescita e decrescita, ma la flessione c'è e segna un andamento del manifatturiero ai minimi da 15 mesi. La Francia sta messa peggio, perché l'indice PMI era già sotto quota 50 e a settembre scivola ancora. C'è da scommettere che, nonostante non sorrida, Berlino continuerà a bacchettare Parigi sulle riforme, soprattutto adesso che l'Eliseo si appresta a chiedere per l'ennesima volta un rinvio per il rientro del disavanzo. A tirare le somme della situazione è il dato composito della produzione dell'Eurozona, in flessione a 52,3, ai minimi da 9 mesi. Il malessere all'interno dell'economia di Eurolandia continua, chiosa qualche osservatore. Rallenta la crescita della produzione, rallenta la domanda, mentre l'occupazione non riesce a mostrare alcuna ripresa. Dobbiamo trasformare il mercato del lavoro in un mercato interno europeo, ha detto la cancelliera, riprendendo subito il piglio del rigore. La Germania chiede affidabilità all'Europa. C'è già molta flessibilità nel patto di stabilità. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come avete sentito, il mercato del lavoro è anche al centro delle discussioni europee, ed è al centro delle discussioni naturalmente all'interno del Partito Democratico, come ben sapete. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Eh sì, Simone, allora si parte chiaramente dalla querela di questi giorni, che è quella sull'articolo 18. Il ministro del lavoro Giuliano Poletti cerca un'intesa con la minoranza Dem e spiega che il resta il reintegro per i licenziamenti discriminatori, aperti a ogni opzione dopo i 3 anni. Sull'articolo 18, spiega Poletti, non c'è decisione ma varie proposte. La mia opinione è che bisogna prima avere il quadro degli ammortizzatori e dei servizi messi in campo alla riforma. Fin qui quindi il ministro. Sul tema però interviene anche l'ex viceministro dell'economia della minoranza Dem attualmente, Stefano Fassina, a Mix 24. Sentiamo. Il Presidente del Consiglio fino a pochi giorni fa indicava il modello tedesco come obiettivo da raggiungere anche per quanto riguarda la partita dei licenziamenti senza giusta causa e giustificato motivo. Con l'emendamento del governo si va in direzione di eliminazione di questa tutela e quindi c'è da parte di chi, di alcuni di noi, che ritengono debba continuare a proporsi l'intervento che avevamo definito, c'è mi pare legittimamente una posizione diversa. Oggi scade il termine degli emendamenti, nessun voto oggi però del gruppo PD sul Jobs Act al Senato, si attende la direzione di lunedì prossimo. Luigi Zanda cerca di ricompattare le file e ieri Matteo Renzi ha lanciato però un messaggio chiaro, quello di un nuovo mercato del lavoro, ottenendo anche l'appoggio del capo dello Stato Giorgio Napolitano, che dice basta ai conservatorismi. Attesa anche la riunione della minoranza Dem, che dice no a modifiche dell'articolo 18, capeggiata da Luigi Bersani. Luigi Bersani, a te Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. Si ricomincia a votare, tra l'altro, anzi si sta votando in questi minuti per eleggere i membri della Corte Costituzionale. Naturalmente Andrea Viali non se ne fa nulla nemmeno oggi, no? No, così è, così Simone, il Parlamento in seduta comune ci sta riprovando, ma per la 14ª volta è in arrivo una fumata nera per quanto riguarda l'elezione dei 2 giudici della Corte Costituzionale. Questo perché oggi Partito Democratico e Forza Italia hanno deciso di votare scheda bianca in attesa di superare lo stallo sui loro candidati, che sono rispettivamente, li ricordiamo, Luciano Violante e Donato Bruno. La stessa decisione, scheda bianca, quindi è stata presa poi anche dal nuovo centrodestra e dalla Lega Nord. Per quanto riguarda invece la scelta dei membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, l'indicazione è quella di convergere su Pier Antonio Zanettin e Paola Balducci, che quindi con ogni probabilità saranno eletti con la votazione che è in corso in questi minuti. Per la Consulta invece si tornerà a votare la prossima settimana. Nel frattempo però Partito Democratico e Forza Italia dovranno evidentemente cercare di sciogliere il nodo modo delle candidature. Il punto è che in molti nel Partito Democratico si rifiutano di votare Bruno, che sarebbe indagato ad Isernia, ma questo rischia di bruciare anche la candidatura di Violante, che per Forza Italia resta legata a quella di Bruno, candidatura quella di Bruno sulla quale il partito di Berlusconi non sembra intenzionato a fare passi indietro. La situazione è una situazione di stallo, quindi, e vedremo se nei prossimi giorni si riuscirà in qualche modo a superarlo. Simone. Grazie Andrea Viali per questi aggiornamenti. Noi passiamo alla cronaca, innanzitutto con due notizie appena battute dalle agenzie. La prima arriva dai dintorni e dal mare di Mazara del Vallo, dove un peschereccio è naufragato, da quanto si apprende, a circa 4 miglia da Capo Feto. E il cadavere di uno dei 5 componenti dell'equipaggio di questa motopesca, che si chiama Tre Fratelli, è stato recuperato. Secondo la Capitaneria di Porto di Palermo, che sta coordinando le operazioni, vi sarebbero ancora 2 dispersi, mentre invece sono 2 le persone tratte in salvo. Stiamo cercando di metterci in contatto con la Capitaneria di Porto, vedremo se ci riusciremo durante la trasmissione. L'altra è una notizia di cronaca giudiziaria ed è la richiesta del procuratore generale Mario Remus nel processo d'appello per la morte di Stefano Cucchi. Si chiede di ribaltare la sentenza di primo grado e condannare tutti gli imputati del processo, anche gli infermieri e gli agenti. In primo grado furono condannati solamente 5 medici. Il caso Iara adesso. La difesa ha presentato nuovi elementi che pongono nuovi dubbi anche sulla prova regina tra quelle che inchioderebbero Bossetti, ossia il DNA. Non è possibile una diagnosi certa delle tracce di DNA trovate su Iara Gambirasio. È questa la tesi contenuta nell'istanza di scarcerazione presentata dai difensori di Massimo Bossetti, l'uomo accusato di aver ucciso la ragazza di Brembate e incarcerato dal 16 giugno scorso. Istanza rigettata dal GIP di Bergamo e che verrà riproposta al Tribunale del Riesame di Brescia. Il corpo, dicono gli avvocati, è rimasto troppo a lungo esposto alle intemperie e i reperti sono compromessi. Questa è la citazione di un passaggio della prima relazione del RIS di Parma alla Procura di Bergamo, datata 2011. Ma quella relazione è appunto di 3 anni fa e da allora, ossia dopo l'isolamento del profilo di ignoto 1 dai vestiti di Iara, al caso genetico hanno lavorato anche 2 università, quella di Roma Tor Vergata e quella di Pavia, per le ultime decisive comparazioni. E per l'accusa quelle tracce rappresentano la prova regina. Nell'istanza di scarcerazione di Bossetti vengono contestati anche i risultati delle analisi delle celle telefoniche. In un documento di Vodafone è emerso infatti che l'ultimo aggancio dell'utenza della vittima, col 26 novembre del 2010, non deve intendersi quella di Mapello, bensì quella di Brembate, dove abitava Iara. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Avete sentito nel servizio di Adriana Fracchia citare l'Università di Tor Vergata, che ha lavorato sul caso. Proprio tra poco parleremo con Giuseppe Novelli, che è rettore dell'Università di Tor Vergata, genetista e appunto ha lavorato sul caso di Iara Gambirasio. Cercheremo di capire se ci può sciogliere qualche dubbio su questi temi. Restiamo sulla cronaca, ci spostiamo in Sicilia, a Corleone, per una maxi operazione dei carabinieri. Bisognava pagare un pizzo per lavorare, solitamente una quota del 3% sugli appalti, che poteva scendere fino all'1% in caso di difficoltà economica. Così gli imprenditori edili del Corleonese hanno denunciato i mafiosi che continuavano a chiedere soldi, minacciare e intimidire. Chi non pagava si ritrovava a bottiglie incendiarie nei cantieri, mentre i mezzi venivano danneggiati o rubati. Grazie alle indagini svolte dagli inquirenti, questa mattina un'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di 5 persone, azzerando i vertici della cosca di Palazzo Adriano, in provincia di Palermo. A capo un dipendente comunale, Antonio Di Marco, legato alla famiglia Riina. Il comandante dei carabinieri, Pierluigi Solazzo. Era stato posto al vertice come supervisore e uomo di coordinamento sulla famiglia mafiosa di Palazzo Adriano. È fratello del ex autista di Ninetta Bagarella, moglie di Totò Riina. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Roma adesso, dove resta alta l'attenzione nel quartiere alla periferia est della capitale, a Corcolle. Gli assalti agli autobus, 2 in appena 24 ore, e poi la rabbia dei residenti contro gli immigrati, ma anche contro le istituzioni da sempre assenti. Rimane sempre alta la tensione a Corcolle, ma la situazione oggi appare sotto controllo, anche perché la questura ha intensificato le misure di sicurezza con diversi presidi, tra cui quello di fronte al nuovo centro di accoglienza di Via Nova Feltria. Ci è stato chiesto, per motivi di ordine pubblico, di tenere i migranti all'interno perché sarebbe rischioso farli uscire in questo momento, ha detto poco fa il coordinatore del centro, Paolo Bergamo. Alberti, secondo il quale gli immigrati non c'entrano nulla con le aggressioni a bus. Ma intanto ieri sera nuova manifestazione anti-immigrati degli abitanti di Corcolle. Oltre 100 persone si sono radunate in via Spinetori mentre qualcuno sta pensando ad una raccolta di firme per chiedere la chiusura del centro di accoglienza. Ma in questo quartiere, alla periferia est di Roma, non lontano da Tivoli, convivono in realtà diverse anime. E c'è chi respinge con forza l'etichetta di razzisti, Danilo Proietti del comitato di quartiere. Il quartiere è un quartiere tranquillo, non siamo razzisti, niente di tutto questo. Non c'è mai stata una convivenza difficile. Ci sono tante persone di tante nazionalità diverse che vivono a Corcolle da tantissimi anni. Questa rivolta è una rivolta di disperazione, probabilmente guidata da non so chi, non certo da alcuni di quartiere. Noi non siamo né a favore né contro i centri d'accoglienza. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Si apre oggi il vertice sul clima a New York. Per l'Italia ci sarà il presidente del Consiglio Renzi, ma sotto quali insegne e sotto quali speranze prende l'avvio questa nuova discussione? Sul tema del clima premono per un'inversione di tendenza gli ambientalisti, ma anche il mondo dell'industria e i paesi colpiti da catastrofi naturali dovuti ai cambiamenti climatici. Di questo si parla a New York con i negoziati internazionali sul surriscaldamento climatico che dovrebbero portare a un accordo internazionale nel 2015 a Parigi. È lì che si giocherà la partita grossa, come ci racconta il professor Riccardo Valentini, premio Nobel per la pace 2007, per le sue attività all'interno dell'IPCC. Io credo che l'accordo si troverà, perché poi diciamo c'è anche un'economia che sta crescendo, un'economia tecnologica, innovativa, che ha anche i numeri diciamo, sui mercati globali, quindi perché poi alla fine l'interesse sempre parte dall'interesse economico, evidentemente. Che tipo di accordo si farà e quanto sarà ambizioso? Purtroppo, siccome è passato molto tempo, oggi l'accordo non può che essere molto ambizioso. Molto ambizioso significa ridurre il 50% le emissioni entro il 2050, che è un target praticamente ambiziosissimo. Questo sarebbe un pericolo perché un altro accordo debole non aiuta, non assolutamente non aiuterà perché non risolverà il problema, che era delle aspettative nei cittadini, in qualche modo che abbiamo risolto un problema, ma non ci metterà al riparo dal riscaldamento globale. Quello che si apre a New York è un vertice dunque molto importante, preceduto da una mobilitazione senza precedenti con una marcia per il clima in diverse città del mondo, fra cui New York e Roma. Il tema riguarda tutti, basti pensare che le catastrofi naturali hanno provocato nel 2013 il triplo degli sfollati rispetto ai conflitti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Massicci raid americani dei paesi arabi sulla Siria. Le vittime, riferiscono le ONG, sarebbero 20, tra cui 8 civili. L'Italia, ha detto poco fa il ministro Pinotti, mette a disposizione un aereo da rifornimento e degli addestratori. È affondato un peschereccio nel Trapanese, è stato recuperato un corpo, ci sarebbero 2 dispersi. Anche oggi per l'elezione dei giudici della Consulta nulla da fare, scheda bianca da tutte le forze politiche. Processo d'appello per il caso Cucchi, il procuratore generale chiederà condanna anche di infermieri e agenti che in primo grado furono assolti. Resta alta la tensione a Corcolle, periferia di Roma, dove ci sono state 2 aggressioni ad autisti di autobus, presidio permanente degli abitanti davanti al centro di accoglienza per immigrati. E siamo a parlare ancora una volta del caso di Yara Gambirasio, perché ieri è stata presentata la difesa, ha reso pubbliche in qualche modo le motivazioni per le quali ha chiesto la scarcerazione di Massimo Giuseppe Bossetti, il principale imputato, e tra queste c'è la messa in dubbio della qualità della prova regina, che è quella del DNA, quella che veramente incastrerebbe Bossetti. Lo hanno fatto i legali di Bossetti, citando un rapporto del RIS risalente al 2011, nel quale, in sostanza, la faccio molto semplice, si mette in dubbio l'integrità di quel reperto, per così dire. Insomma, si dice in sostanza che quel DNA, il DNA raccolto sul corpo di Yara Gambirasio, potesse essere in qualche modo corrotto, per così dire. Saluto Giuseppe Novelli, che è rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, è un genetista, è già stato nostro ospite, il suo team si è occupato anche di questo caso. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. Allora, avrà letto, immagino, no? Sia i giornali, no? Sia immagino avrà letto quel rapporto del RIS al quale si fa riferimento. Che cosa ci dice? Ma guardi, oggi ho visto tra l'altro anche che il RIS ha spiegato chiaramente dove poteva sorgere questa sorta di equivoco, cioè qui non si tratta di mettere in discussione l'identificazione o l'identità di appartenenza di quel DNA a una persona, è la prova. E lo dimostra il fatto che in questo caso dal DNA si è arrivata a identificare una persona di cui non si sapeva assolutamente niente. Quindi questo dimostra come è preciso quel test, perché arrivare a dire che una persona è figlio di un altro, illegittimo, di una famiglia di cui non si sapeva neanche l'esistenza, questo dimostra che la prova, quella prova di identificazione è sicuramente accurata e certa, altrimenti senta, non sarebbe arrivata. Senta professore, il dubbio è un altro, ecco questo. Prego, prego. Il dubbio non è sulla identificazione di appartenenza del DNA, da quando mi è dato di capire, ovviamente come lei sa, tutta la perizia è depositata in mano ai magistrati, quindi non ho i dati conclusivi eccetera, e loro dicono però stamattina che si riferisce alla natura biologica del campione trovato, cioè quando si trova un DNA spesso bisogna anche risalire se questo DNA proviene da cosa, sangue, capelli, sperma, urine, ecco, tutto questo sono altre prove che si fanno. Lì era una traccia molto piccola, c'era del sangue, c'era qualcos'altro, evidentemente, come dicono loro, non si può dire con certezza la natura biologica, quella frase si intuisce, ma non è che non si arriva all'identità, l'identità è certa. Perché, mi scusi, in questo rapporto del RIS citato poi dalla difesa di Bossetti, si dice, pare discutibile come ad un'eventuale degradazione proteica della traccia non sia corrisposto un'analoga degradazione del DNA. Il reperto che vi siete trovati di fronte, diciamo così, il pezzo di DNA, io la faccio semplice per gli ascoltatori, è possibile che fosse degradato, per così dire? No, perché altrimenti, le ripeto, non si sarebbe arrivato ad una identificazione così certa. Quando loro parlano di degradazione proteica sta a significare esattamente questo, cioè quando noi ci troviamo di fronte ad una traccia per poter definirne la natura biologica, spesso non si fa il DNA, si fanno le proteine, che è un'altra cosa. In questo caso le proteine evidentemente erano passate molto tempo, come lei sa bene, no? Erano degradate, distrutte, quindi non si riuscì a risalire con esattezza alla prova, diciamo così, di natura biologica, ma non del DNA, che è assolutamente così preciso che, le ripeto, ha permesso di individuare una persona di cui non si sapeva nemmeno l'esistenza, se vuole, no? Perché è la prima volta che accade questo. Normalmente noi quando abbiamo un DNA abbiamo anche una persona di confronto, un indagato, una persona, diciamo così, di comparazione. Qui non c'era, per cui si è risaliti dal DNA a identificare una possibile persona. Io poi ho analizzato, diciamo, questo calcolo teorico preciso, accurato con cui si è arrivato, e non avrei potuto farlo se i dati trasmessi dal RIS non erano accurati nell'analisi, era impossibile, no? Altrimenti non saremmo identificato un parente illegittimo di una persona. Beh, lei si immagina adesso la fantasia fino a un certo punto, ma insomma la realtà è un'altra cosa. Quindi per farla io la faccio molto semplice, sono un giornalista, professore, quindi mi intendo di genetica molto poco. E quindi possiamo dire, per farla semplice, la traccia di DNA era pura, quella che è arrivata nelle vostre mani, che avete analizzato, è indiscutibilmente pura ed è quella di ignoto 1. Non c'è ombra di dubbio. Allora, grazie a Giuseppe Novelli, rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, genetista, appunto, la saluto e la ringrazio. E saluto adesso Germano Dottori, che invece, anche lui, professore universitario, docente di studi strategici alla LUIS. Dottori, benvenuto e bentornato, anzi, ai nostri microfoni. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori sintonizzati. Senta una cosa, ma è davvero possibile che questa operazione degli americani e dei paesi arabi tra Siria e Iraq avvenga senza, per così dire, boots on the ground, ossia stivali sul terreno, ossia senza truppe di terra? Ma direi proprio sì, anche perché un'operazione della natura di quella che è stata intrapresa non può che avere degli obiettivi limitati, altrimenti la coalizione si sfascia. Mi par di capire che c'è un accordo per colpire in modo significativo questo sedicente califfato islamico, senza però fare passi ulteriori che in qualche modo disegnino degli equilibri differenti in Siria e forse anche in Iraq. Questo è quello che mi pare di concludere, perché gli americani simpatizzano per una parte dell'insurrezione anti-Assad, che è estremamente debole, è legata alla fratellanza musulmana, che non potrebbe in alcun modo essere appoggiata da una parte della coalizione, segnatamente dai sauditi e dai loro alleati del Golfo. Io credo che tutto sommato ciò che va cercando Obama sia un significativo indebolimento dell'ISIS, non la sua cancellazione, lasciando Assad dove si trova, perché questo gli permette di mantenere aperto il dialogo con l'Iran. Il filo mi sembra, dottori, che il filo sia molto sottile a questo punto sulla riuscita o non riuscita dell'operazione, perché gli equilibri regionali, per così dire, che si vanno a stabilire subito dopo, e anche gli equilibri nazionali, penso soprattutto alla Siria, diventano complicati da gestire. Cioè il rischio alla fine è di lasciare mano libera ad Assad, in sostanza. Ma io penso che questo faccia in realtà parte del calcolo del presidente Obama, il quale non a caso nel settembre dello scorso anno ha cercato ogni scappatoia possibile, ogni arrangiamento possibile per evitare di bombardare il regime di Damasco. Il regime di Damasco in questa fase serve, non essendo immaginabile, di sostituirlo con un'emanazione della fratellanza musulmana. Questo mi pare che sia l'approccio realistico che il presidente Obama ha dato in questa fase alla sua strategia per quella zona di mondo. Strategia che evidentemente, cioè, il concetto, mi scusi dottore, anche qua io semplifico, il concetto è questo: è un dittatore sanguinario, ma almeno è laico, e questo è il ragionamento che stanno facendo negli Stati Uniti, secondo lei? No, il ragionamento che fanno gli Stati Uniti è: se crolla Assad si impolisce Rouhani. E se si indebolisce Rouhani, svanisce la speranza di un dialogo con l'Iran che porti a quella riconciliazione che, a mio avviso, è l'obiettivo strategico fondamentale del secondo mandato di Obama alla Casa Bianca. E questo obiettivo è un obiettivo sul quale Obama non ha con sé buona parte della coalizione che in questo momento sta bombardando l'ISIS. Quindi è un gioco estremamente complicato. È un gioco estremamente complicato e che per certi aspetti in questo momento mette a rischio l'Occidente, cioè i proclami di ISIS da questo punto di vista sono, come abbiamo visto, abbastanza forti, con un rischio più marcato naturalmente per Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti. Che rischi vede di un, come dire, di un ritorno del terrorismo, aperte virgolette, in grande stile? Il rischio di un ritorno del terrorismo jihadista in grande stile è implicito nella politica che l'Arabia Saudita ha fatto per fermare la primavera araba. Purtroppo, allo stato in cui siamo, il rischio maggiore è rappresentato da uno stallo che permetta agli occidentali che si sono arruolati nell'ISIS, perché ce ne sono a centinaia se non a migliaia, tornino nelle nostre terre, nei nostri paesi, e qui perseguano delle loro agende. Bisogna essere molto attenti, è un rischio del quale io personalmente sono stato posto al corrente nel corso di una riunione assai ristretta che si è svolta all'ambasciata americana qualche giorno fa e alla quale partecipavano anche dei rappresentanti delle comunità islamiche in Italia, che chiedono la cooperazione della Digos e persino la cooperazione dei nostri servizi di intelligence per tracciare queste persone che si muovono da l'Italia per queste zone dove si combatte. Grazie anche per le notizie interessanti che ci ha dato. A Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUIS, sempre molto chiaro. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. 20 vittime, tra cui 8 civili, nei massicci raid americani e dei paesi arabi sulla Siria. Anche oggi per l'elezione dei giudici della consulta nulla da fare, sono ancora in corso le votazioni, ma tutti i partiti hanno inserito nell'urna una scheda bianca. È affondato un peschereccio nel Trapanese, è stato recuperato un corpo, ci sarebbero 2 dispersi. Nel processo d'appello per il caso Cucchi, il procuratore generale chiede la condanna anche di infermieri e agenti che erano stati assolti in primo grado. Villa in Sardegna, un albergo in centro a Roma, per un totale di 30 milioni, scatta il congelamento dei beni italiani per uno degli uomini più vicini a Putin. Lui dice è assurdo. La borsa. Borse in diretta. Veramente una brutta giornata, meno 1,43% per il FTSE MIB, meno 1,36% per il FTSE Share, negativa anche il resto d'Europa, quasi 2 punti percentuali di calo per Parigi, l'1,34% per Francoforte, Londra lascia giù un 1,35%. Isabella Tasso, Radio Cori, Sole 24 Ore, ciao, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Allora, come mai vanno male le borse? Ma a pesare sono dei nuovi dati macroeconomici europei, peggiori delle attese, specie sull'andamento del manifatturiero a settembre, che nell'eurozona si è attestato ai minimi dagli ultimi 14 mesi. Le borse sono comunque condizionate negativamente anche dalle tensioni in Medio Oriente e anche dall'inasprirsi dei rapporti fra Europa e Russia, notizia delle ultime ore, che sono stati confiscati in Italia i beni del magnate Arkady Romanovich Rotenberg, molto vicino a Vladimir Putin. Vedo molto bene i titoli del lusso oggi in un mercato negativo, perché Yux più 2,8, Moncler più 1,3, Ferragamo più 0,31. Sì, tutto il comparto recupera, ricordiamo che aveva perso parecchio comunque nelle ultime sedute, in particolare Yux, fa eccezione Tod's che continua a cedere il 2%, questo all'indomani dell'Investor Day che ha poco convinto gli analisti. Grazie anche per oggi a Isabella Tasso e ai colleghi di Radio Cori Il Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ce n'è una di notizia appena battuta dalle agenzie e riguarda l'inchiesta, la ricorderete, sull'ex segretario dell'UGL del sindacato Giovanni Centrella. Questa mattina è stata sequestrata la sua casa, è accusato di appropriazione indebita dei fondi del sindacato. Ebbene, da quanto si apprende, la procura di Roma lo accusa di essersi appropriato di non meno di 250.000 euro, appunto, provenienti dai conti del sindacato. 5 gli episodi contestati, come spiega appunto il decreto di sequestro preventivo dell'appartamento che in realtà è intestato al figlio. Saluto Felice Floris, che è portavoce del Movimento dei Pastori Sardi. Buongiorno Floris, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, voi oggi state protestando tra l'altro davanti a una sede della Regione Sardegna e mi dicono blindata, ci sono 100 tra poliziotti, carabinieri e via dicendo. Sì, va bene, ma era una normalità, nel senso che tutte le manifestazioni comunque sono accompagnate da un servizio d'ordine, anzi diciamo che è comunque abbastanza discreto. Come dire, non avete intenzione di far casino, ecco, mettiamola così, insomma. Assolutamente, la nostra manifestazione pacifica, siamo venuti a Cagliari perché riteniamo che ci sono delle cose che la Giunta regionale deve ascoltare direttamente dai protagonisti, direttamente dagli operatori, quelli che in campagna lavorano e producono. Ci sono delle ingiustizie e cerchiamo di spiegarle alla Giunta regionale, al Presidente, che comunque non va bene queste. Ci stiamo parlando dei fondi comunitari, stiamo parlando della nuova PAC. Diciamo che le aspettative del movimento è che venga, diciamo, rispettata la volontà della riforma di Ciolos, cioè del commissario europeo. Qua invece si sta cercando di imbrogliare le carte, di togliere risorse alla Sardegna, una Sardegna pastorale. Senta, in realtà questa manifestazione è l'approdo finale di una serie di riunioni che avete fatto tra voi, insomma. È un'altra tappa della nostra mobilitazione. Noi siamo già da mesi facendo assemblee nel territorio, questa è la prima manifestazione che facciamo a Cagliari, ce ne saranno delle altre, perché comunque vogliamo coinvolgere gli amministratori locali, i sindaci, perché comunque sono quelli che sono danneggiati, perché in Sardegna si parla di un esodo terribile dalle zone interne. Senta Floris, naturalmente c'è anche qualche ascoltatore che ci scrive e devo dire che un ragionamento è visto da qua, ci può anche stare, ma vale ancora la pena fare il pastore? No, non vale la pena, in queste condizioni no, ma che alternative abbiamo? Io che alternative do ai miei figli? Se non altro li tengo impegnati, lavoriamo, invece di guadagnare facciamo debiti. Però ecco, il circolo vizioso non puoi lasciare perché perderesti tutto, questo è il grande imbroglio che ci tiene legati. Noi siamo i moderni schiavi. Moderni schiavi, dice lei. Allora, Felice Floris, in bocca al lupo per la vostra battaglia, portavoce del Movimento dei Pastori Sardi, oggi in manifestazione davanti alla Regione. Noi adesso parliamo di immigrazione e della famosa Frontex Plus, che è la grande operazione che dovrebbe in parte, solamente in parte, sostituire Mare Nostrum o essere di supporto all'Italia. Di questo ha parlato questa mattina Michele Cercone, che è il portavoce della commissaria Malmström, intervenuto a Mix 24. Sentiamo le sue parole. Una volta aiutati i migranti nel mare grazie a questa, speriamo, reale sinergia di più paesi, poi dove vengono portati? Sempre in Italia? Beh, guardi, questo sarà definito nelle linee operative di Triton. È chiaro che di solito nella prassi di Frontex, Frontex si occupa dell'aiuto al monitoraggio e alla sorveglianza, poi l'elemento di ricerca, sull'elemento di assistenza in mare e di salvataggio rimane una competenza esclusiva degli Stati membri, quindi è chiaro che in quel caso verrebbero portati in Italia. Resta però un elemento sempre importante. Sempre in Italia, diciamo, per essere concreti. Sì, per essere concreti. Sempre in principio saranno in Italia, però c'è a questo punto un discorso e credo per la prima volta un'apertura che vediamo arrivare anche da altri paesi anche sul fatto che in Europa al momento 5 soli paesi, inclusa in questo momento l'Italia, ricevono il 75% delle domande d'asilo, quindi c'è anche una riflessione in corso da parte degli Stati membri su un'eventuale chiave di ripartizione. Allora, mi fa notare Laura Fagin dall'altra parte del vetro che ho detto in bocca al lupo ad un pastore, che non è proprio il massimo, però insomma la storia l'avete sentita. Parliamo di musica adesso, o meglio delle polemiche dopo le dimissioni di Riccardo Muti, dalla rinuncia a dirigere Aida e le nozze di Figaro in programma per la stagione 2014-2015 al Teatro dell'Opera di Roma. Continuano le polemiche sulla crisi del mondo della musica in Italia. Adriana Fracchi ha raccolto il commento di un critico musicologo e decano dei critici e musicologi, Quirino Principe. Sentiamo. Nella cultura musicale si è fatto scempio, si è fatto strano e fin dall'Unità d'Italia questo è il punto di partenza. Come mai l'Italia fino alla metà del secolo XIX continuava ad essere un centro di autorevolezza universale per quanto riguarda la musica? E nel 1861 questa posizione felice dell'Italia fu capovolta e quindi poi distrutta alla fine da una decisione di colui che fu il primo ministro della pubblica istruzione dell'Italia Unita, Francesco De Santis. Declassa la musica a mera pratica, a mero intrattenimento. La situazione si è sempre più logorata, abolendo, come fece De Santis, l'insegnamento della musica in tutte le scuole di ogni ordine grado e riservandolo soltanto ai conservatori, la cultura musicale italiana a mano, di generazione in generazione, perdendo una percentuale indifferenziale, si è ridotta a quasi zero. Posso dire che il vero problema non è decidere chi abbia ragione nella polemica romana o in polemiche abbastanza analoghe, ma è soltanto il fatto che nell'insieme un direttore d'orchestra, anche grandissimo come Muti, anche famosissimo, anche è diventato un po' leggendario e mitico, dall'altra parte i lavoratori veri, reali di quel lavoro che si chiama musica, sono tutti uniti nell'essere vittime di questa situazione culturale generalizzata. Perché in Francia, perché in Germania una cosa del genere in Austria non avverrebbe mai? Perché in Germania, in Francia, in Austria c'è una cultura musicale così diffusa che chiunque, avendo a che fare con il teatro d'opera, lo considera un luogo che va comunque tutelato con un atteggiamento di rispetto che non c'è in Italia. In Italia ci si domanda sempre quale sia il costo della cultura, mentre la cultura non è un costo, ma è una grande ricchezza. America. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da San Francisco. Mario Platero, sono al seguito del presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono allo Yacht Club della città che fu il centro della battaglia per l'America's Cup, qualcuno di voi lo ricorderà. E qui Renzi si è incontrato con dei giovani imprenditori italiani nella Silicon Valley